bene, lavora molto bene con me, come connessione. Naturalmente ci sono alti e bassi, i video sono più pesanti da scaricare, soprattutto se sono lunghi, che ne so, 20-30 secondi o più, sono più pesanti, cioè prima di caricarli ci sono un po', invece le foto, questo è da stasera, che c'è qualcuno all'ascolto, gli risponde o non risponde? Ho detto, sei Bacchisio, boh, non ti sento, sei a scariche. Ho detto, ma chi sei, Marino? Sono io, sei tu, ti sento male, ti sento basso. E a pigliare in culo. Non mi ha detto chi è, non ho voluto dire chi è. E stavo per dire, ecco, tronca di là. Cosa ci sta facendo, Marco? Ti volevo dire una cosa, non mi ricordo. Oia, mi sento un bel debole, lo sai. Eia, ma adesso com'è la situazione tua? Cioè tu devi tornare dopo le feste o no? O sei a riposo? No, no, no, devo tornare. La mia situazione te l'ho detto. Come? E mi ha mandato a Sassari, te l'ho detto, ti ho detto tutta la storia. Già non me ne ricordo più, no, già. E vabbè, però prendo un pasticcio e poi ti seguono la legge ciecamente, dice, la legge dice, ma se uno vuole la legge la può ignorare e agevolare lo stesso un dipendente, cioè chi tiene dipendenti fa degli strappi alla regola, capito? Chi vuole, ma infatti si dà la discrezione della ditta, è quello lì, non è questione di legge, è la discrezione della ditta, se la ditta vuole ti tiene lo stesso, ti dà per dire 20 giorni di figli, poi te le scala, eccetera, eccetera. No, il problema è che praticamente quando è? Ieri mi hanno mandato a fare due viaggi, anche se io non potevo guidare, ma l'ho guardato, quando mi detto, ci manca roba, vabbè. Sono andato, ho fatto questi viaggi, il ritorno non mi reggevo più in piedi, non riuscivo più a tenere il piede in terra. Ma allora mi ha detto, Gianni, cosa c'hai? Te lo sai, il piede, non potevo guidare io. E perché non me l'hai detto? Tu non lo sai perché che... E gli ho detto, no, non, cioè, non mi ha detto nulla, l'altro su, cioè no. Ma vabbè, comunque non riesco a appoggiare il piede, la mi fa malissimo, se mi devo riposare 5 minuti. No, no, dice che fare una cosa. Tanto tu hai già dato per oggi. Fa una cosa, vattene a casa e riposa, ti ho detto no, non lascia perdere, no, te lo sto dicendo io, vai, vai, tranquillo, non ti mettere problemi. Ehi, cioè devono capire che non puoi né guidare né camminare, è una soluzione che bisogna trovare. La soluzione sarebbe rimanere a casa, dovrei stare col piede in alto, perché adesso mi si è riaperta, capito, di nuovo la ferita. Di nuovo riaperta, poi già ti è costato questo maledetto vetro, bisogna camminare, te le immagini, bisogna camminare con la suola, quella antinfortunistica che ha praticamente una lamina in ferro, laminata in ferro sul fondo per non appunto beccare roba puntita, allucinante, guarda. Guarda, ieri avevo dei bruciori. Guarda, non lo auguro a nessuno, manco a loro a volte fanno cose che non devono fare. Dei bruciori da stare malissimo, brutto, pure una debolezza addosso mi sentivo. Era la messa di mezzanotte, ma non ce la stavo facendo più. Poi la messa, mi ha voglia di pregare, non serve a niente pregare. Vabbè, adesso non stiamo a parlare di quella roba lì. E poi dunque, oggi vabbè, 25, domani Santo Stefano, tutto chiuso lo stesso, no? Un altro giorno di, così, di, un giorno morto, diciamo, dai. E vabbè, io me ne sono rimasto in pigiama, pensa, al giorno di Natale. Non mi sono nemmeno vestito perché ero attaccato tutta la sera, almeno tutta la tarda mattinata e tutto il pomeriggio al computer. Con lo smartphone, guardando video, guardando forum, guarda, è un passatempo, guarda, innegabile quello. Quando vuoi sapere qualcosa, di qualsiasi cosa, c'è sempre la risposta giusta. Se vuoi sapere qualcosa di un attore, di un termine, tutto, tutto lo scibile umano c'è. Sì, lo so. faccio così. Quando anche per quello che ha avuto mia sorella, sono andato a cercare la gravità. E c'è scritto che il cervello non è come negli altri organi, il cervello è piccolo e quindi non c'ha modo di espandersi, di prosciugarsi, capito? È più difficile. Invece mia sorella, grazie a Dio, si sta alzando in piedi, sta camminando, ha fatto colazione stamattina, tranquilla, capito? Non ha avuto nessun problema. Avanti. Buonasera Gianni, buonasera Marco. Ma chi si è a questa parte? Sai tanto, se no per fare gli auguri salutarli. Ok, a unisci e buon Natale, buon effetto, se lo sentiamo ancora. Ma chi già mi saluta, fa sei quelli che dovete. Riprendi Gianni. Ciao Marchisio, tanti auguri anche a te famiglia, stammi bene, e goditi queste feste, con pace e serenità, avanti Marco. Eia, ciao Bacchisio, grazie agli auguri contraccambiati. Mi era sembrato di sentire un'altra persona che ha detto pace bene, mi è sembrato Gianfranco, tu sì. E auguri a tutti, buon Natale e tanta serenità. Eia Gianfra, eia, grazie Gianfra di cambiati. Sì, oggi proprio sono in stato, allo stato brado, come dico io, sono rimasto in pigiama, perché tanto siamo usciti, non doveva venire nessuno a trovarci, e quindi siamo in libertà, diciamo. Ok, riprendi Gianni, per Gianfranco. E dai, ciao Gianfranco, tanti auguri anche a te, ben sentito, dai. Avanti, riprendi Gianfranco. Stavo ascoltandola un po'. Mi ha fatto sorridere quando ho visto la formazione di Marco, magari inutile, beh, per un po' che ha perduto le stanze, è normale. Sì, Gianfranco mi vede sempre negativo. E vabbè, la religione, ma ce ne sono tanti, sante voglio dire. Tutti dei chiamati in modo diverso, quindi ognuno dice che il suo è l'unico vero Dio, e allora è tutta una frottola. Eia. No, per Gianni dico, altro che, purtroppo quando c'hai quelle cose lì, altro che pregare, non voglio bestemmiare qua, ma mi verrebbe voglia. Eia. E poi, non so se stavi ascoltando, stavo dicendo a Gianni, appunto del parentado, o pseudo parentado, insomma, che noi stiamo bene qua come stiamo, per conto nostro, me. Non vogliamo avere contatti con persone, non mi viene il termine tecnico, indesiderate, ecco. Vabbè, risparmia anche a Natale. Ma la telenovela, ce ne sono cose, veramente chi ha passato un po' di anni, eccetera, eccetera, acquisisce una maturità, non so, solo la vita, per cui la pensa in un altro modo, ecco, si tiene stretto quello che ha. Avanti Gianni. Kappa. È giusto che sia così. Marco, io ti volevo dire una cosa, tu hai detto una frase, dice la pregare non serve a niente. Ricordati sempre che tu quando hai un momento di debolezza devi avere qualcosa a cui appigliarti. E se hai la religione a cui appigliarti, ecco, un punto d'appoggio. Quando non credi in nulla, che sei apatico in tutto e per tutto, vedi tutto negativo, appoggi non ne hai. Per cui è sempre meglio credere in qualcosa. Io ci credo perché ho avuto questa educazione qua. Mio padre era anche molto religioso, addirittura faceva la relazione cattolica, faceva il catechista. Ho sempre avuto l'educazione religiosa, per cui ci credo e ci credo fermamente. Avanti Gianfranco. Sì, hai detto perfettamente questo, ma anche a prescindere dall'educazione che si è avuta, eccetera, eccetera, nel momento in cui sei messo davanti a determinate situazioni, sia come spettatore sia come protagonista, insomma, se non c'è fede, sicuramente sei molto, molto, molto, molto agiato. È tutto così. Io mi auguro, anzi, spero che Marco non abbia mai vissuto, no, che non abbia mai questa esperienza, perché ce ne sono veramente di brutte, ma speriamo comunque che su questo ragionamento, diciamo, possa riflettere in maniera più approfondita, ecco. Ehi, ehi, Gianni, quando hai detto bisogna avere qualcosa a cui attaccarsi, io mi attacco al ca, mi attacco, capito? No, io ho detto bisogna avere un punto d'appiglio. E siamo lì già, siamo lì. Vabbè, no, io sono lamentoso, ma poi sono più lamentoso al baracchino, ma poi già. Mi stavo divertendo col tiro a segno a casa. In corridoio mi sono messo un bersaglio con figura umana e stavo tirando, dai, per passare la serata, perché lunedì in TV ci sono filmucoli scemi, quei filmetti che danno a Natale, così un po' per bambini, e quindi non sapendo come passare tutte le ore mi stavo divertendo in quel modo lì. Ehi, ehi, ci è fatta ora. Mi sono riposato mezz'oretta, una mezz'oretta mi ha fatto bene, dai. Oggi proprio tutta una tirata allucinante, ero stanco morto. Eia, vediamo se Bacchisio c'è ancora. Bacchisio, vuoi riprendere? Oh, il PMR... zero totale, devono essere tutti in coma etilico da ieri notte. L'ho pensato anch'io che magari con parentela, no, più che in coma. Ci sono parenti a casa, non possono accedere. Marco. Eia. Una curiosità, ovviamente, io faccio la domanda, però tu poi rispondere o no, perché non è che sia obbligatorio, poi dire no, come? Ma quanti anni hai? 45. Bella età. Ti pensavo molto più piccolo, per dire. E tu invece, Gian? Io, 57. Noi siamo più vicini allora. Non dice la tua, avrei voluto sapere cosa, adesso ci dici la tua, lo fa l'orologio. Guarda, l'altro anno, nel 2017, mi compio 60. Sì, vabbè, dai, ciao, va bene, beh, sai, per andare in pensione. Ah, guarda, io stavo facendo una considerazione, perché questa, a volte la gente non ci pensa, però ci sono delle cose un pochettino, come chiamiamo, buffe. Tu sai che quando uno arriva, adesso attualmente ha circa 67 anni e spiccioli, va in pensione, però per un certo periodo di persone la pensione sarà di circa, col contributivo, più o meno di stipendi medi, media normali saranno intorno agli 800-850 euro, mentre la differenza con la pensione sociale, che viene data notoriamente sempre alla sua età, però a chi non ha, anche a chi non ha mai lavorato, a meno che non ci vogliono 20 anni, adesso no, o 10 anni, non me lo ricordo, comunque la pensione sociale è di 500 qualcosa, quindi tra chi ha lavorato, c'è questa strana differenza che non è molta, di 300-350 euro all'incirca. Lo trovi buffo? Sì, non parliamo di pensioni, perché guarda, una cosa allucinante. No, ma io ho colleghi che sono andati in pensione col massimo e prendono sui 1300 euro. Ma saranno vecchietti? Vecchietti, hanno 65-66 anni, là, 50, 60, 65, là, più che altro, 64-65 anni. Ma quanto hai detto già? In soldi? 1.300. Cazzo, avevo capito, 6.300 euro. All'anima, cosa sono, parlamentari? Tangente. Però quelli... iniziato a lavorare da ragazzini, quindi nel 1995 avevano più di 18 anni di lavoro e cadono nel retributivo, che è una cosa ben diversa. Poi vabbè, io ne ho 34 di contributi, quasi 35, sono entrato nel 35esimo anno, a ottobre ne ho fatto 34. Ma l'importante è nel 95 quanti ne avevi? E boom, bisogna vedere, non mi ricordo. Gianni, Gianni, vedi, te l'ha spiegato Gianfranco, vedi, io mi sto ascoltando, vedi. Io rientro già fra linea contributivo, vedi, infatti fra due anni me ne vado in pensione. No, tu rientri nel retributivo, cioè calcolato in base agli stipendi. Il contributivo è quello calcolato in base ai contributi, che è una mazzata anche per chi ne ha 40 anni. Tutti e due li prendo io. Ho iniziato a 14 anni con l'apprendistato, quindi c'ho addirittura le marchette, scegliate, marchette. Non ho mai fatto marchette, io comunque mi chiamo scegliate, vabbè. E poi il contributivo e il retributivo, tutti e due ce li ho. Capito bene? Se ci arrivi! Cazzo, rattapignato! Io... carità, tu se continui così non ci arrivi sicuramente all'età mia, perché sei già morto cadavere, sento la puzza qua, ti troveranno seduto in quella poltrona morto, cazzo. Divano, prego. Senti, stanno già venendo a prenderti. No, no, quelli sono lì, sono per te. Oh, neanche detto l'ultima parola, no? Che cazzo? Cisci, cisci. Poi immagini già fa. Sto andando a tapinare. Non ha mai fatto niente in vita sua. E c'ha 40 anni. Cisci, ne ho vergogna. Ma che pensione ti danno a te? Pensione invalidità ti danno? No. No, non è vero che non ho mai fatto niente, diciamo che quando ho lavorato in nero, quindi no, non mi tocca niente. No, in nero ho lavorato, vedi, tu sei come la Raggi, anche a te ti deve fare una vice garanzia. Sì, dipende da quale garanzia. Vabbè, comunque buonasera a tutti, buon Natale, io sono entrato adesso. Mi sono seduto, ho acceso, ho sentito voi, state parlando, non sono stanco morto. Poi, tutto il giorno in giro, stamattina è stato aperto, ma lavoro, domani l'ho perso. Vedi Gianni, parte del contributivo, bisogna lavorare sempre, anche le feste. Sempre non è salto neanche in mare. Nulla, vedi, ho lavorato 24, ho lavorato 25, e oggi, lavoro domani, fino al 30. E poi il 31 prendiamo l'aereo. Ma io non sono di lavorare alle feste, non dovrei lavorare manco nei giorni feriali. Per come sono, Claudio, io dovrei aver finito, non è che... Io l'altro giorno sono stato male. Quando è? Ieri. praticamente mi hanno fatto guidare, sono andato a Sassari, a Sorso, eccetera, eccetera. Sono tornato e non riuscivo più a appoggiare manco il piede in terra, mi bruciava in una maniera che era una cosa irresistibile. Mi sono seduto nella sedia, perché mi hanno detto di riposarmi quando stavo male. E ho visto il principale e mi ha detto, già cosa c'è? E ho detto, è il piede, lo sapevate che non potevo guidare, e me lo potevi dire, anche voi non lo sapete. A me dice, fa una cosa, tanto è già dato, quello che dovevi dare è dato, fatele a casa e ti riposi. Un buon datore di lavoro fa così. Comunque, quello che prende a te è una tua scelta, Gianni. Mio collega ha avuto un problema continuativo, malattia, poi rientrava, malattia, rientrava, malattia, rientrava, alla fine si è stufato, è andato dal medico del lavoro, nostro stesso a Cagliari, noi abbiamo un medico del lavoro che ci segue, di giorno per giorno, se c'è qualche patologia da curare si può curare, oppure se ne torna anche viene a farsi tutti i controlli, gli analisi, eccetera. Ho fatto un certificato non idoneità al lavoro, l'ha spedito all'azienda e l'hanno mandato in prepensionamento, perché non è più idoneo al lavoro, nel senso che non ce la fa, rientra, poi si ammala, rientra, si ammala, quindi questa è una tua scelta, questa è una tua scelta, basta scegliere che cosa vuoi fare e modi per andarsene ci sono, però è una tua scelta, tu 9.300 euro al mese purtroppo non te l'hanno se te ne vai adesso, quindi o soffri silenzio o continui a fare malattia, rientro, malattia, rientro. Allora io pensi che sia con il termocchio, io sono andato già a informarmi e praticamente con l'assegno anche di invalidità, compresa la pensione, sempre che te la diano, perché ha detto che non è detto che te la diano, guadagni 900 euro al mese, io con 900 euro al mese non campo, quello lì sarà il mio avvenire, io non voglio fare una vita facendo la fame, questo è poco ma è sicuro. Ho prima appurato quello che dovevo fare. Sono andato, mi sono informato e sono chiamato anche il sindacato. Il sindacato mi ha detto non accettare assolutamente la pensione perché non ti conviene. Dice ti hai fatto il mazzo per tanti anni e di cosa vuoi prendere? 900 euro, ma stai scherzando, cosa ti basta? Mi ha fatto ragionare praticamente e a me non mi sta bene. Non hai capito, io so già tutto quello che hai fatto perché l'hai raccontato tu l'altro giorno, io stavo ascoltando. Quindi ti ho infatti detto che è una tua scelta nel senso scelta personale, o vai in pensione e ti prendi 900 euro al mese, non 1.300, oppure siccome non hai la retributiva o la contributiva, allora devi ancora aspettare, devi aspettare parecchio, capito? Perché tu devi arrivare o a 65 anni, oppure devi avere 42 anni e 6 mesi di servizio. Quindi quello che sto dicendo è una tua scelta, purtroppo se c'è questo problema è così, l'azienda deve cercare di metterti in condizione di non soffrire, capito? Questo dipende anche da loro, a questo mio collega l'hanno aiutato perché non è in pensione, è in prepensionamento, siccome le mancano 2 anni per 60, 63, 64, 65, sì, 2 anni e mezzo fa a 66 anni, quindi avevamo messo in mobilità in prepensionamento. Percepisce quasi il 90% dello stipendio, che è abbastanza buono, è oltre 1.000 euro, e fra 2 anni praticamente finita la mobilità va in pensione. Quindi l'azienda che deve metterti in condizioni di poter andare avanti per questi anni, capito? Darti un ruolo meno faticoso e che non ti crei problemi al piede, tutto lì. Nel mio caso invece io arrivo al massimo fra quasi 3 anni, quindi ma, grazie a Dio posso farli tranquillamente con alti e bassi, con acciacchi e cose, però non ho quella patologia che hai tu, che è molto brutta, lo so Gianni, molto molto brutta, quindi cosa molto, molto fastidiosa, soprattutto per chi ha il diabete. Vabbè, vai essere, avanti Giaffa. Sì, e comunque, siccome mi è parso di percepire che qualche cosa non sia molto esatta dal punto di vista reale, cioè di quello che è la situazione, non si dovreste dimenticare che in pensione si va ora come ora da 67 anni più qualche mese, poi scatta credo in 2 anni verso l'alto, fermo restando quello che dice la legge Fornero, se non la modificano, speriamo, perché sennò praticamente uno ci arriva a 70 anni in pensione. Poi ci sono 2 sistemi di calcolo, uno è quello retributivo, che è quello indubbiamente vantaggioso, che permette pensioni di 1.300 euro, per dire, no, ho detto una cifra a caso. L'altra è quella contributiva, che interessa oramai quasi tutti, anche io sono un sistema misto, ma su Claudio probabilmente prima del 92 già avevi almeno 18 anni di contributi, allora saresti in teoria tutto retributivo, che se siete mal vecchio credo che le pensioni erano un pochino più vicine. Pensa che a calcolo già fatto io andrò sopra a termine di età, diciamo a 67 anni e 6 mesi eccetera eccetera, te lo dico perché sono andati anche i colleghi già, quindi sarà intorno ad 850 euro, con un stipendio che è disponibile pubblico, quindi si può immaginare. Infatti ti ho risposto poco fa, io rientro sia in una che nell'altra, ce le ho tutte e due. Sono nel misto, quindi io ho deciso per andare a 60 anni, perché posso decidere. C'ho quasi 19 anni di contributi, 95 vedi tu, faccio, è così, io rientro con tutte e due e io ho deciso quella perché va bene così, e vado con Massimo, capito? Giustamente, come ha detto Gianni, non è che accettando una cosa del genere lui avrebbe accettato a sé, a meno che avesse avuto l'unico stipendio che prende, ma 300 euro in meno, so, si può campare 1.300 euro, ma 980 euro non fai la fame a bere anche le mille, capito? Quindi, allora, già, io ti ripeto, te l'ho già detto, un'azienda che è un po' rimango perplesso nel sentire queste cose, perché sanno quello che hai, sanno nelle condizioni in cui sei e continuano a farti virare imperterriti. È una cosa allucinante, vergognosa, se mi consenti di dirlo, perché se c'è un responsabile aziendale, un responsabile personale che sa qual è il tuo problema, dice Gianni, facciamo una cosa, così evitiamo, siccome io ti voglio qua perché sei indispensabile, ma oggi mi rimani qui fisso in negozio, ok? Vedi, vediamo un po' di fare qualcosa, però tu da oggi in poi non guidi più. Quello è già un sollievo, perché se continuano a farti guidare, o ti dati una macchina con un cambio automatico, già, in modo che non puoi sforzare il piede, cioè che decidano cosa vogliono da te, perché so perfettamente, senza minimi termini che hai dato veramente lì dentro, perché io ti conosco da tanto e quindi so che hai dato tantissimo lì dentro, quindi ma è possibile che l'azienda, che sia nuova, che sia la vecchia, che non ci sia una persona lì dentro capace che dica Gianni, da oggi tu rimani qui, non guidi più, oppure compriamo un mezzo, siccome tu il tuo lavoro l'hai sempre fatto bene, nessuno si è mai lamentato, siamo disposti pur di averti qui in azienda che viene a lavorare, di comprare un mezzo con cambio automatico, in modo che tu non sforzi il piede. Ma, sì, ma poi vai a frenare, come è già successo quando è. E ieri si sono stato lontano salendo a Sassari, questo qui ha frenato di colpo, c'è stata una fila di macchine che hanno frenato di colpo e io sono arrivato dopo e ho dovuto frenare di colpo anch'io. E come pensi che abbia frenato? Con il piede praticamente destro. ho frenato e mi sono fatto male, perché ho frenato proprio dove c'era il taglio. Però ho dovuto farla, che se no mi chiudivo, c'era una catena di macchine, sei presente, no? Quando una frena di colpo e tutte le altre cercano di scansare. Tu il taglio ce l'hai nel destro o nel sinistro? Nel destro. Ma che sfigato, come fosse stato nel sinistro, lo abbandoni proprio e usi sia acceleratore che freno, col cambio automatico fai tutto col destro, capito? Già, una cosa è sentirtela dire, mi dispiace davvero tantissimo, però ti ripeto, in casi così l'azienda deve far sì che tu possa continuare a lavorare, possa dare il tuo contributo aziendale, ma chiaramente senza far male, perché andare a lavorare e stare male è una cosa molto molto brutta, su questo non ci piove. Vada a pignare tu, non te ne frega niente, tu basta ci sia il piatto con punto pieno, e boh, così. No, vabbè, non è così, però non ci sono alternative. Purtroppo, te l'ho detto, sempre nero, ho detto vabbè, questo è provvisorio, alla fine poi non c'è uscito niente, vabbè, ormai. A Gianni gli hanno fatto fare roba diversa anche lì, hanno messo a portare i bancali, come si chiama quella cosa, per mettere la roba negli scaffali, il muletto, no, quello che sta interno, già. Che roba. Per carità di Dio, è assurdo una cosa del genere, però purtroppo esiste anche questo. Mi ripeto, questo mio collega già fa, non aveva la contributiva, però la retributiva la prende in pieno. L'azienda gli ha dato una mano, ha messo 2 anni in mobilità. Tranquillamente, capito? Perché non c'era assurdo continuare, ma io stesso ero intervenuto, io altri responsabili di squadra erano intervenuti, cioè non possiamo stare appresso a persone che stanno facendo una cosa e che dopo 5 minuti svengono, ambulanza, lo portano a ospedale, poi si fa un mese a casa, rientra, torna a Venice, viene ambulanza, cioè non va bene, perché se io mi distraggo, secondo l'ovvetto, ingaggi dritto a un pozzetto, ingaggi dritto a un mascone, la responsabilità è la mia, perché la squadra la comando io, quindi quelli possono dire perfettamente, dice no, a me ti ha detto di mandarlo lì, lo poteva tenere, ma cosa devo tenere io? Quello è il mio lavoro, quello è l'ordine di servizio che voi mi date e io devo eseguirlo, capito? Quindi alla fine ci siamo un po' rifiutati tutti, perché le ha girate tutte le squadre, nessuno poi lo voleva più. E allora l'azienda ha deciso di fare questa cosa, ma l'abbiamo fatto per il suo bene, non perché una persona che non è capace di lavorare. Appunto questa cosa che come si affaticava e cagia capa a terra. E più di una volta ha rischiato di farsi veramente male, perciò capito, tutto qua. Tu Gianfra sei più grande di me o quanto me? Un attimo, dai, che devo andare, che Taglio sta brontolando, dai, vi saluto e vi auguro una buona giornata per domani. Ciao Marco, ciao Claudio, ciao Gianfranco e tutti gli ascoltoni, ciao ciao a tutti. Comunque Claudio, la ditta mi ha aiutato e cose, solo che a volte ci sono delle necessità di estreme e purtroppo bisogna fare certe cose, non è questione di volermi male, è questione che purtroppo è finita della merce, sono dovuto andare a prenderla perché c'era una vendita allucinante. Sai, questi giorni è un casino, vabbè, non ti regoli mai, ne prendi tanta e la vendi lo stesso, quindi siccome io voglio che la ditta vada avanti, l'ho fatto lo stesso. Babuda, ci sentiamo, buona serata a tutti. Ciao già, non te ne fare una colpa. Ti ho già detto poc'anzi che so che hai dato e dai il massimo nel tuo lavoro, quindi è così. Ciao, io sono salito poco fa e quindi adesso sono qui. Ok, ci sentiamo, vai Gianfra. Sì, ciao Gianni, buona serata. E avrei ancora buon Natale. Sì, Fabio, quello è andato praticamente per... sono due modi per andare via in pensione, anche in quei casi lì c'è la pensione di invalidità, nel caso sia un'invalidità importante, eccetera, eccetera, eccetera, oppure per inabilità sarebbe quella che tu sei posto inabile al lavoro e se l'azienda non c'ha possibilità diverse per provocarti, allora smette in pensione. Ecco, il problema è sempre lo stesso, sono le commissioni. Ad esempio per noi le commissioni sono a Cagliari, fanno una visita a Cagliari e lì la commissione vista le carte esprime un parere. Così sicuramente è stato il tuo collega, ma lì è ancora più seria la cosa, essendo una ditta che fa lavori anche abbastanza pericolosa, magari non c'ha neanche uffici in cui collocare la persona, gli dice qualcosa dobbiamo fare, la scelta saggia è quella di non andare in pensione per inabilità o per invalidità, e comunque di lì le vengono conteggiate anche tutti gli anni che le mancano la pensione. Sono mutato la legge in questi ultimi anni, così, a prescindere prenderà la pensione piena come se stesse andando all'età regolare. Sì, esattamente. Sì, già da tempo avevamo scontato questa cardiopatia e quindi non ho voluto mai mollare, però soprattutto nel periodo estivo ha queste mancanze, queste cose, quindi non era più fattibile poter continuare sapendo che si poteva fare male, ma poteva far del male anche a chi la stava vicino, insomma, chi collaborava con lui, eccetera. Capito? Perché è una bellissima persona, un uomo grande, c'è una vita di lavoro fatta con molta serietà, con molta attenzione, però io non la sono sentita di averlo nella squadra con me, poi l'hanno spostato, l'hanno messo con un altro ad Olbia, stesso problema, poi l'Olbia è entrato, era qua a Caniga, la stessa cosa, l'impianto sia di Caniga è enorme, ci vuole, mi sa che hanno preso con le biciclette e i motorini per andare da Poppa Prua come la nata, no? Dagli uffici all'attività operativa, no? ci sono chilometri, quindi anche di più. E quindi lui si scaccava tantissimo, capito? Perciò è arrivato. Ho detto, tu quanti anni di servizio hai? Scusa Marco, quanti anni di servizio hai tu? A che ti hai iniziato a lavorare? Dove sei adesso? No, per noi è un po' diverso, perché i sistemi pensionistici dipendono dall'ente da cui provieni. Noi dipendenti pubblici siamo provenienti dall'INPS, mentre invece sono stati, diciamo, adesso conglobati tutti insieme nell'INPS, e quindi i nostri trattamenti sono stati miscelati con quelli dell'INPS, quindi hanno fatto più di un casino, per cui devi sempre, nel caso di venire a un patronato, per capire che fine fai. Io dovrei essere oltre i 30, il calcolo preciso non me lo ricordo, l'avevo fatto, però oltre i 30, poi c'è anche il filo militare, quindi che me lo sono dovuto tra l'altro riscattare, non ho capito perché, comunque non sono riscattato anche questo. Adesso vediamo, infatti lo devo dire, vabbè. Comunque, essendo i nostri stipendi bassi, naturalmente anche la pensione sarà bassa. Stavo proprio leggendo avanti ieri, col contributivo, che ripeto non è da confondere, col retributivo, che in base allo stipendio, quello che ci avevano i nostri padri, i nostri nonni, che era indubbiamente molto, molto migliore, siamo al 60%, esattamente al 63% dello stipendio acquisito. Mentre con quello del, con quello retributivo, dovrebbe essere intorno all'80-85%. Poi l'esenzione dalle tasse, quelli così te lo fanno aumentare anche un pochino. Tutto lì, diciamo che quella signora che se ne sta a piangere ci ha dato una fregatura che non aveva conto una casa. Salva. Vabbè, vabbè, no, io sono molto più avanti, Non mi hai detto quanti anni hai, però. Avanti, Marco. Sì, non lo so, 60, esatto. Ma quindi sei anche più grande di me. Però io ho iniziato prima. Poi io sono rientrato con la legge, sai, io sono nato orfano praticamente, io ho 3 mesi quando è morto mio padre. Quindi c'è anche una legge che ti permette di avere dei contributi agevolativi da proprio riscattare, da metterti in mezzo per le persone che hanno iniziato a lavorare prima del 18° anno, quindi ho iniziato ne avevo 15, diciamo, perciò è così, vabbè, sì, beh no, a me no, non me li ho dovuti riscattare, io ne ho fatto 24 mesi di marina, ho fatto 2 anni, me li hanno assegnate tutte e 2 anni me li hanno assegnate senza nessun riscatto, capito? Beh, il mio contratto è contratto regionale, Federgasacco, quindi quello che ha il contratto era quello che aveva Manò. Perciò non cambia niente per quanto riguarda il contratto di lavoro. Poi dopo ci sono altre cose che stanno verificando, ma comunque al 99,9% è tutto a posto. Mi mancava un'esenzione che avevo fatto anni fa e basta. E poi te lo dico dopo, ma se lo rilancio a Marco perché non mi guarda il fatto della malattia. Riprendi Marco. Eia, io non mi ero reso conto dell'orario. Chiudo adesso, dai, vado a vedermi un po' di paperissima su canale 5, dai, vi saluto, ciao Gianfranco, ciao Claudio, rinnovo gli auguri per quanto valgono e ci sentiamo domani, dai, al limite. E riprendi Claudio, dai, ciao a tutti. Oh Claudio, lui se la ride perché va benissimo, perché tecnicamente e praticamente la sua pensione la dobbiamo pagare noi, anche dalla nostra pensione. Sì, di questo appunto ne ero convinto, ne ero certo che a Marco la dobbiamo pagare nella pensione. C'era Marco, no, io mi sono andato 3-4 a tavola, ero a pranzo fuori oggi, con la famiglia, compresi sorelle, fratelli e così via, e quindi basta. Stanotte ho mangiato una frutta e boom, ho già cenato io, quindi fra un po' anch'io chiudo. Ciao Marco, tante cose belle, ci sentiamo domani, vai Gianfra. Sì, ciao Marco, ci sentiamo, no? Non ti dico che buon Natale, tanto non frega niente, ci sentiamo di prossima, dai, riprendi. Ok, come stavo dicendo, io ho fatto pochissima malattia nell'arco appunto degli anni, purtroppo ho avuto 2 infortuni, sai che sia nella malattia che nell'infortunio c'è un discorso diverso per quanto riguarda la situazione contributiva? No, stai sbagliando. La malattia, che comunque gli infortuni, con le leggi attuali, vengono conteggiate pienamente, tranquillamente. Cioè, io parlo di noi, ma anche penso di voi. Noi abbiamo un limite in termini di, dopo un certo tot, diciamo, praticamente rimani senza... rimani a metà stipendio e poi se procedi, ma è ovvio che se procedi oltre, penso, 6 mesi, 7 mesi, di malattia, la malattia è diventata talmente grave che non si c'è proprio, diciamo, quindi non fa testo, è quella, sono nel comparto pubblico, ma sono anche nel comparto privato. Il problema del privato, come giustamente ci ha parlato Gianni, è che essendo privato nel senso di privato a livello di piccola azienda, le grandi aziende sono controllabili recentemente al rispetto delle leggi. Il piccolo privato, sai, ti può dire, beh, ascolta, ogni tanto c'è qualcosa, vattene via e arranca, che purtroppo fanno così, perché siamo in un'epoca un po' strana. Però invece l'azienda è grande, fa proprio come ha fatto il tuo collega, lo manda a passare una visita e poi la commissione decide il suo status, ecco. Di gente grossa, per carità, lascia verte. Ok, cosa stavo dicendo? No, perché praticamente a me mi ha arrivato una lettera nella verifica, nel controllo dell'INPS eccetera, l'INAIL, che appunto mi diceva, c'era una cartella, non voglio di andare, sono tra virgolette, che comunque era in corso una verifica da parte dell'INAIL, non ricordo così approssimativamente, dell'INAIL per quanto riguardava l'infortunio effettuato nell'arco degli anni lavorativi, capito? Quindi pensavo fosse un controllo per quanto riguarda la verifica contributiva, invece tu mi stai dicendo no. No, per l'incidente, conoscendo i tempi, se l'incidente è recente intendo 2, 3, 4 anni, ci mettono un po' per valutarlo, capito? Magari poi ti danno qualche beneficio, oppure come successivamente secondo no, se non ti danno niente, che anche a me me ne hanno venuti, mi hanno tamponato violentemente una macchina. Ovviamente da fermo, quindi immaginate, fate visite, le visite dicevano sì, in effetti qua c'è roba eccetera, ma sai com'è, no? Se loro possono non te ne danno, sono come anche l'INAIL è un'assicurazione, no? Quindi come tutte le assicurazioni, se sei morto dicono no, non sei morto, per me sei vivo, anche se non ti muovi stai facendo finta che non muovi, capito? Nonostante tutte le lacrime eccetera dicessero altre cose, ma fanno così di default, capito? Esatto. Sì, sicuramente è quella, perché a me mi è successo 3 anni fa, mi pare, un infortunio sul lavoro, e quindi sicuramente è quello lì. Vabbè, ma non mi preoccupa assolutamente, perché ti ripeto, i conteggi sono già fatti. Ho la lettera dell'INPS che i contributi sono tutti a posto, sono tutti versati, e che il mio tempo appunto massimo è tra i 2 anni e 2 anni e mezzo per poter andare via. Va bene, dai Gianfra, io mi allontano. Perché mi sto addormentando la sera, sono stanco molto, stamattina mi sono andato prestissimo dal lavoro, poi questa buffata del pomeriggio mi ha un po' scombussolato tutto, perché non sono abituato a mangiare così tanto, però c'era di tutto e di più, e quindi abbiamo fatto insomma un po' questa grande buffata. Ci sentiamo domani, se coincide domani. Saluto a tutti che sono ascolto, chiudo, guarderò un po' di TV fino a quando resisto, se no mi addormenterò prima. Ciao Gianfra, approfondiremo comunque questo discorso, dai. Così ci mettiamo in guardia per quello che ci spetta. Ciao, buon fine serata, buon fine Natale, domani Santo Stefano, quindi buon Santo Stefano per domani, ci aggiorniamo. No, Santo Stefano, sono sbaglio, dovrebbe essere no, è fatto il resto, no, no, è fatto domani domani lo vera vabbè, stavo dicendo ok, Claudio, sì, tieni presente che comunque te lo dico perché non ci sono tanti. Il quarto pubblico, quando devi andare in pensione sei obbligato a andare da un palco mappo a fare tutto, perché sono tanti stranelli, tante fregature che già lo sai, non è la tua via quando scendi, un po' più sotto di dove sono io, hai visto sì, cosa c'è ogni mattina alle 7, se devi scansare, quelle sono tutte macchine di persone che vanno a chiedere, a vedere com'è, come non è, come dove è finita la pratica, non casino. Ciao Claudio, buona serata, e ancora a voi. Sì, sì, già fatto, vabbè, mi sono fermato lì. Fatto un altro nostro della Cisa, è abbastanza.